Banca Carige Italia, Banca del Monte di Lucca, Cassa di Risparmio di Carrara. Vi presentano gli speciali di Radio 24. Buonasera da Laura Bettini, buonasera dal comune di Orbetello. Siamo riuniti nella sala giunta del comune di Orbetello per una giunta però molto atipica questa sera. Parliamo di quello che è accaduto nel corso della giornata, soprattutto ad Albinia. Parliamo di come è andata questa giornata di proteste, di manifestazioni che nasce da un evento disastroso. Avvenuto nel novembre scorso, il 12 novembre per l'esattezza, un'alluvione che mai era stata così forte in precedenza in questa zona, che ha devastato realmente la cittadina di Albinia, il paese, il centro di Albinia, ha colpito pesantemente gli agricoltori e gli imprenditori di questa zona. Però prima di tutto, prima di presentarvi gli ospiti, che sono numerosissimi, vi assicuro, ringrazio la sindaco di Orbetello, che è Monica Paffetti. Grazie per l'ospitalità, buonasera. Buonasera. Monica Paffetti, io darei un po' a lei questo primo intervento, perché dobbiamo un po' capire perché siamo arrivati a questo punto, perché dopo 4 mesi è stato necessario scendere in piazza, manifestare, bloccare l'Aurelia per un certo periodo di tempo. Tutto è stato ovviamente fatto nella maniera più pacifica, nella maniera più anche gioiosa in un certo senso, c'erano i bambini delle scuole, però perché siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto perché dopo 4 mesi abbiamo ancora tantissimi problemi aperti. Ieri abbiamo avuto la firma del DPCM che ci nomina il commissario dell'emergenza, il governatore Rossi, che è arrivata ieri perché mancava la firma del presidente Monti, perché c'erano dei problemi legati al Ministero dell'Economia per quanto riguardava il 25% di queste risorse, che per la regione toscana si parla di 110 milioni di euro. Parlando di la regione per interezza, non solo regione, dell'area maremmana. I milioni sono per il discorso della regione toscana e il 25%, noi avevamo fatto una richiesta ben precisa perché il problema più grosso noi l'abbiamo per quanto riguarda il privato, per quanto riguarda appunto quelle sono le aziende e le famiglie, dove non c'era nessuna forma di contributo, perché finora le uniche risorse che erano arrivate sono le risorse che sono arrivate tramite la regione e che sono appunto in conto capitale, quindi servono per fare le opere pubbliche, e poi c'è 6 milioni che sono una cosa veramente minima per quanto riguarda l'agricoltura, ma sempre e soltanto esclusivamente dalla regione toscana. Quindi lo Stato è stato assente. Ieri c'è stata la firma di questo decreto che domani vedremo pubblicato. Chiaramente si parla di 12 milioni per il nostro territorio, a fronte di una situazione in cui solo di commercio noi abbiamo 10 milioni di danni, quindi è chiaro che è una goccia nel mare, però almeno è un qualcosa che potrà permettere a chi deve rifare impresa, a chi deve ricominciare, di sapere che non partirà da meno zero ma partirà da più uno. È poco, però è qualcosa. Ma è un inizio, è anche un segnale, diciamo, di fiducia per chi comunque lavora, per chi vive qui, perché anche di quello c'è bisogno necessariamente. Lei ha parlato di impresa, Antonio Capone, lei è direttore della Confindustria di Grosseto. Vogliamo fare un po' un riassunto della situazione per quel che riguarda le imprese? Sì, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. E quello che diceva la sindaco Monica Paffetti è vero, e le risorse che solo ieri sono state deliberate, di fatto firmate, rappresentano una goccia nel mare, perché i danni stimati nelle imprese, solo quelle direttamente colpite, assommano a circa 61 milioni di euro nel settore non agricolo. Se poi a questo aggiungiamo anche il settore agricolo, si stimano danni solo per il settore agricolo di circa 45 milioni di euro, vede bene che superiamo i 100 milioni di euro. A fronte di questi danni diretti, e quindi non quelli indiretti di tutto l'indotto e delle altre attività produttive, quello che ci risulta è che questa piccola goccia nel mare porterà, sotto nostra richiesta, circa 12 milioni da dedicare alle imprese che dovranno, per ripartire, per ricominciare a svolgere la loro attività produttiva, investire per acquistare macchinari, per ripristinare murature o magazzino o altre attività. Ecco, questo è il vero problema. Un'economia di un paese, oltre i danni subiti, oltre la catastrofe, nel settore agricolo, nel settore produttivo, parliamo di commercio, di turismo, di industria, non può ripartire. Questo è un territorio che è al collasso e noi abbiamo organizzato tutte le associazioni di categoria, insieme anche alle associazioni che si sono spontaneamente costituite sul territorio dell'Albinia, abbiamo organizzato oggi questa grande manifestazione, me lo lasci dire, perché un territorio come il nostro non si era mai trovato a dover affrontare una condizione del genere, e oggi abbiamo visto l'unità di tutto il territorio, di questa noi si chiama Maremma, siamo nella zona, nella provincia di Grosseto, la Maremma, e oggi si è dimostrata una grande unità di tutti i cittadini. E questa manifestazione appunto è per richiedere con forza soprattutto al governo degli interventi reali che non riguardano solo il finanziamento delle imprese ma anche la defiscalizzazione degli oneri appunto che le imprese devono pagare e anche le famiglie, perché certo, non è possibile, non potendo lavorare, chiedere comunque agli imprenditori di versare delle tasse. Andrea Visconti, lei rappresenta un altro settore qui importante. Andrea Visconti è un agricoltore, presidente di Copaca, che è una cooperativa. Ci dica un po' la situazione per quel che riguarda il settore agricoltura, che qui è un settore importante, non stiamo parlando di minutaglie, stiamo parlando di qualcosa di grosso. Buonasera a tutti innanzitutto. Io sono un presidente di una piccola cooperativa, diciamo, sono 160 soci, però è una cooperativa che è nata nel 1953 e è sempre stata una cooperativa che si è sempre, diciamo, organizzata, ha fatto tutte delle buone cose, non abbiamo avuto mai bisogno di nessuno, diciamo. È venuto questo evento e questo evento è stato disastroso. All'inizio sono arrivate tante buone pacche sulle spalle da tutti gli enti, però dopo 4 mesi poi i soci vengono a parlare con me e mi dicono: io quest'anno non semino, e poi si semina a settembre, noi andiamo in stand by per 24 mesi. E questi soci mi dicono: cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo avuto il coraggio di liquidare dei prodotti che sono andati, come la cipolla, come il grano, abbiamo liquidato perché oltre le buone pacche sulle spalle ci avevano detto che ci avrebbero anche aiutato. Poi si sente di questi 110 milioni, poi un po' del 25%, poi di qua, poi di là. E siamo arrivati al punto che siamo a marzo. La gente ha 2 risparmini a casa, poi le finiscono. E c'è una sorta di, non di disperazione, ma quasi. E allora è venuta fuori questa manifestazione, importante, un bel segnale. E spero che questa manifestazione, questi appelli fatti un po' da tutte le associazioni, abbiamo visto che c'è la politica ha un segnale, che i sindacati l'abbiamo messi tutti e tre insieme, c'era tutte delle bandiere, non so se avete visto all'inizio del corteo, certo. Abbiamo visto anche tanti sindaci di tanti comuni sindaci, non proprio vicini, a qualcuno è venuto anche da un po' più là. È un segnale che forse la politica se ne deve rendere conto, che insomma siamo uniti per arrivare al nostro obiettivo. E io penso che la giornata di oggi si possa ripetere in altre manifestazioni, sempre spontanee e tranquille, però per farci ascoltare, perché arrivano dei risultati meglio di questi 4 mesi che sono passati. Di questi ultimi 4 mesi. Giuseppe Rustici, lei presiede una di questi comitati, di queste associazioni che sono nati dopo l'alluvione. Intanto le chiedo come le pare sia andata la giornata, cioè è riuscito a vedere, diciamo, muoversi le coscienze? Sì, grazie, vi ringrazio di questa possibilità di farci parlare e darci di nuovo voce. Oggi, sì, io sono il presidente dell'Associazione Vita, un'associazione che è nata il 2 di gennaio e proprio con l'intento di coordinare, diciamo, la voce dei cittadini e insieme, diciamo, parlare con le istituzioni, essere vicini alle istituzioni. E oggi abbiamo fatto una grande cosa, perché 13 sindacati e organizzazioni di categoria professionali, più i sindacati, parlo di CGL, CISL, quindi i sindacati, diciamo, proprio dei lavoratori, siamo riusciti a riunirli in un unico gruppo, tutti si parlavano la stessa lingua, e questo qui forse è l'unico punto che ci porterà, diciamo, a risolvere i problemi, questi problemi grandi della Maremma. La manifestazione è riuscita benissimo, è uscita benissimo. C'è stato caos, ma un caos contenuto. Siamo riusciti a controllare i manifestanti e praticamente abbiamo fatto parlare di noi. E non abbiamo parlato di un aspetto, ma che io lo vorrei mettere in primis. Noi abbiamo paura ad oggi del nostro territorio, abbiamo paura che quello che è successo succeda di nuovo. Adesso arriverà la primavera, arriveranno le stagioni estive e quindi arriverà il sole, la Maremma rifiorirà, perché la Maremma è pronta a rifiorire con le loro persone, con le loro piante, con i loro fiori. ma quando arriverà il settembre, ottobre, si presenterà di nuovo il rischio dell'alluvione, perché abbiamo paura che le lungaggini burocratiche, che purtroppo sono ormai... Purtroppo all'ordine del giorno, lo sappiamo, sappiamo tanti settori, certo. E rischiano anche i progetti di ristrutturazione idraulica di andare per le lunghe, e quindi rischiamo purtroppo... Un nuovo autunno, con un nuovo autunno, di avere gli stessi problemi. E poi su questo io dico una cosa, le istituzioni, la politica devono trovare le sovvenzioni economiche, perché per fare un serio assetto idrogeologico, un nuovo assetto idrogeologico, ci servono risorse economiche. Ad oggi stiamo lavorando con un budget piccolo, si stanno impostando dei progetti a cui noi assistiamo, perché abbiamo fatto una serie già di incontri con la regione, con la provincia, però c'è un approccio sostanzialmente sbagliato. Ragioniamo con un budget economico, invece no, dovremmo ragionare in quest'altro senso. Dobbiamo sistemare il territorio, costi quello che costi, questo è il cittadino quello che vuole. Se c'è bisogno di 20.000 euro le andiamo a cercare, se costa 30.000 euro le andiamo a cercare, vediamo che per comprare magari armamenti o quant'altro i soldi le troviamo. Quindi lei dice bisogna assolutamente scuotere l'albero e far cadere i soldi necessari, certo, per queste iniziative. E la voce dei cittadini è questo, io alle istituzioni le abbiamo detto, noi siamo i vostri soldati, insieme con voi possiamo raggiungere degli obiettivi. Leonardo Marras, lei è il presidente della provincia, quindi è diretto anche a lei questo messaggio, insomma. Ma sì, io lo raccolgo anche molto volentieri, chiaro, non si tratta di 20.000 euro, vorrei... Magari, Però l'approccio per noi deve essere quello lì, noi dobbiamo riuscire e pretendere che ci sia, dal punto di vista della sicurezza idraulica, un progetto unitario, che possa essere poi svolto anche a pezzi, perché pretendere che ci sia la possibilità in un contesto come quello italiano di oggi, la risposta che non c'è mai stata da nessuna parte, perché io frequento un po' le assisi pubbliche ormai da qualche anno, anche se ho 40 anni, e ho sempre sentito dire la famosa frase: bisogna fare prevenzione. Sì, nel mettere frattempo, in sicurezza, facciamo prevenzione. Non si è mai fatto nulla. E noi siamo arrivati noi però rischiamo, a un punto di rottura. Noi rischiamo di essere gli unici che non hanno riconosciuto nemmeno il danno per la ricostruzione. Questo è il punto vero. Per cui bisogna iniziare a fare prevenzione per davvero. Spieghiamo perché questo accade. Fino a luglio del 2012 esisteva un altro approccio nefando, per carità, della protezione civile, dove venivano incaricati e dati i poteri straordinari ad un commissario, pure dei soldi importanti. Abbiamo tutti letto delle ultime alluvioni anche in Toscana, ma anche nel nord Italia, l'ultima nel 2010 a Padova, 300 milioni di euro per la ricostruzione. Noi abbiamo chiesto di più, abbiamo chiesto di poter usare quello che avevano stanziato, e lo ricordo che quello che è stato stanziato dalla Commissione Bilancio della Camera in sede di discussione della legge di stabilità con il parere contrario del Governo. Quindi il contesto ostile. Se il contesto era ostile, noi però rischiamo davvero di essere il primo caso in cui, avendo subito un danno da alluvione, rischiavamo di non avere nemmeno un euro per poter ripartire. L'abbiamo sentito dalla testimonianza viva. Ci sono persone, soprattutto gli agricoltori, naturalmente tutti, non voglio fare distinzioni, certo, ma è evidente chi è colpito, che chi è c'è chi, come in agricoltura, rischia di stare a costi per 2 anni senza ricavi. E voglio sfidare chiunque a campare. Io infatti vi domando come si possa pensare che persone di questi tempi possano vivere 18 mesi, 24 mesi senza incassamento. E non è possibile tenere un fondo di solidarietà nazionale che esiste e che è a 0 euro. Non è possibile, proprio perché è giusto cominciare finalmente, e noi dobbiamo essere pronti, come veniva richiamato, ad avere un progetto per poter catturare ogni risorsa disponibile, europea o nazionale che sia, perché siamo pronti a farlo, siamo anche, credo, capaci a farlo, ma stiamo discutendo di un progetto partecipandolo insieme alla comunità, che credo giusta e opportuna, però è evidente che questo avrà dei tempi, nel frattempo noi dobbiamo ripartire, abbiamo diritto di vivere e di conseguenza pretendiamo qualcosa di più. Quello di cui noi disponiamo oggi sono solo le risorse che la Regione Toscana in maniera mirabile ha messo a disposizione immediatamente per la ricostruzione del sistema pubblico, perché sono saltate tutte, la provincia ha 96 cantieri aperti da domani, sono completati 96 cantieri aperti in tutta la provincia perché l'alluvione è stato devastante ovunque, naturalmente nell'area di Albinia, di Marsiliana, certo, è stato travolgente, ma quello che è successo non ha ricevuto altro contributo che non quello della Regione Toscana, anche per gli agricoltori. Quello che oggi è stato presentato di contenuto nella protesta è una piattaforma, vorrei dire, modesta, perché i cittadini oggi hanno protestato semplicemente per richiedere ciò che è possibile, non c'è stata nessuna richiesta esosa, c'è il fatto di dire, insomma, almeno mettere quanto ha messo la Regione per quanto riguarda le imprese agricole, sì, fiscalizziamo i contributi previdenziali, perché è evidente che chi in qualche modo non guadagna è difficile che possa contribuire ed onorare anche gli impegni verso i dipendenti. Adesso sentiamo per l'appunto gli imprenditori. La fermo un attimo perché mi piaceva, Sindaco, magari ritornare anche sul fatto che c'è stata questa grande partecipazione di sindaci della provincia che hanno capito evidentemente la situazione e che hanno capito che è una battaglia che va fatta. Quindi mentre prego magari di dare la cuffia, ecco, da una parte, cedo invece, sì, il microfono a lei su questo coordinamento che magari, sì, può nascere con, sì, i sindaci. La cosa importante che è stata della manifestazione di oggi è la partecipazione di tantissime istituzioni. Questo è importante perché vuol dire che siamo tutti consapevoli che del problema. C'erano oltre 12-13 sindaci che vengono da tutta la provincia e anche dall'Alto Lazio, con tutti i loro gonfaloni, con le loro polizia municipale, cioè proprio il rappresentante, la rappresentanza istituzionale piena. La provincia con la presenza di quasi tutta la giunta e anche tutti i sindaci erano tutti con gli assessori, quindi c'è stata una grossa partecipazione, la regione era presente, erano presenti 5 deputati di varie aree, cioè non è che è un discorso politico, è proprio un discorso che c'è la consapevolezza del problema e le istituzioni si stanno facendo carico di questa cosa insieme ai cittadini, perché l'unica possibilità per portare una risposta sul territorio è la collaborazione, cioè le istituzioni insieme ai cittadini devono portare questo progetto. Se c'è da andare a battere cassa, si va a battere cassa, si va a Roma, si va dove bisogna andare, il percorso che dobbiamo fare, come abbiamo fatto con questa manifestazione, la manifestazione che ha avuto una risonanza importante perché tutti i cittadini sono scesi in campo, tutti sono scesi in campo, nessuno ha fatto, purtroppo, come si vede nella politica, di demandare perché poi qualcun altro sceglie al posto tuo, tutti erano presenti e tutti hanno voluto sostenere il proprio ruolo e le istituzioni c'erano, le istituzioni ci sono state. E questo è importante perché vuol dire che si capisce che il problema esiste, un problema concreto, un problema che deve dare una risposta, a cominciare dalla messa in sicurezza del territorio. Che poi è la radice. Sì, perché è la poi radice è la radice, tutto, perché sì, ovviamente uno può ricostruire, rifare impresa, no? Daniele Lombardelli, presidente Copaim, che è una grossa azienda della zona, si occupa, poi ce lo dice bene lui, comunque siamo in campo alimentare, e si può fare impresa, si può anche pensare di ricostruire la propria impresa se si è in un territorio sicuro, però, perché se non ho questa garanzia poi faccio anche fatica a ripartire. Certamente, i problemi sono due, sono già emersi. Il primo è l'estrema difficoltà di ripartire in questa situazione. Noi siamo un'azienda che occupa nello stabilimento di Albinia 130 dipendenti e grazie al grandissimo sacrificio dei dipendenti e l'abnegazione e devo dire anche con l'aiuto delle istituzioni locali siamo riusciti, dopo un mese e mezzo di blocco totale e un altro mese e mezzo di blocco parziale, a far ripartire l'attività della nostra agroindustria. Abbiamo avuto oltre 7 milioni di danni diretti, 4 milioni di fatturato perso al 31 dicembre, danni ulteriori sul fatturato all'inizio dell'anno perché produciamo gastronomia fresca e perciò al momento dell'introduzione della produzione abbiamo immediatamente perso il contatto con il mercato. Perciò danni che si prolungano nel tempo. E sinceramente in questa, il sindaco diceva giustamente, le istituzioni sono state presenti, chi è stato assente è stato lo Stato. Allora, il problema è la messa in sicurezza del territorio, E questo qui è il primo problema, perché non è possibile, solo a pensare, credo che un mese e mezzo fa ci sia stato un'altra acquazzone importante, gli abitanti di Albina portavano le macchine tutte via, sì. C'è anche una psicosi ormai. Beh, certo. Perciò la messa in sicurezza del territorio, il riconoscimento dei danni ricevuti, la possibilità, come è stato ricordato, di avere una sospensione in questa fase di riavvio dell'economia molto faticosa, con i flussi del circolante che sono mancati a tutte le imprese, poter avere respiro su queste cose, ma oltre questo il fatto di non sentirsi cittadini di Serie B. Allora, ricordiamo che, l'ha detto prima il Presidente della provincia, l'alluvione in Veneto, ma anche più recentemente, è un terremoto, non è un'alluvione, ma c'è stato il terremoto in Emilia. Non è che vogliamo paragonare le dimensioni del disastro, ma siamo cittadini come gli altri che hanno avuto disastri di questo genere. Allora, non che l'Emilia sia stata, messo così per puntualizzare, anche sia stata molto facilitata sull'aspetto, però, che citava lei prima, delle imprese, del fisco e così via. Ma allora, è stata fatta la deroga al codice civile, possono approvare i bilanci del 2012 fino al 30 settembre 2013. Il presidente della regione Emilia ha emesso una serie di ordinanze, non so quale sarà la copertura finanziaria, dove riconosce l'80% dei danni e fino al 100% per le scorte perse da tutta l'agroindustria, per restare all'agroindustria. All'agroindustria, sì. Per restare all'agroindustria. Questi sono decreti fatti dal commissario straordinario. C'è stata la sospensione di tutti i tributi e i contributi per un certo periodo. Certo, vabbè, noi a Natale, no, noi 12 novembre sospeso, noi a Natale abbiamo dovuto pagare, giustamente, la tredicesima dipendenti in cassa integrazione, abbiamo dovuto pagare i contributi, abbiamo dovuto pagare come tutti i tributi di fine anno e così via per gennaio e a seguire. Ora, noi non è che chiediamo assistenza, qui nessuno chiede assistenza, qui chiede il riconoscimento dei diritti dei cittadini di questo territorio. Noi abbiamo l'impressione che, essendo un territorio poco abitato, perché questa è forse considerato per motivi, diciamo così, climatici, anche felice per altri. Perché la gente ci viene in vacanza. Siamo stati considerati meno compresi. Bene, assolutamente, assolutamente. Riconosciamo che la regione da subito, insieme agli enti locali, si è mossa al 100% e ha dato tutto il proprio contributo, lo Stato è mancato. Il fatto stesso che non siamo riusciti a avere la presenza di un ministro qui, mai, durante tutta l'emergenza, lo dimostra. Noi nel nostro piccolo abbiamo provato, l'8 febbraio abbiamo fatto un evento nel nostro stabilimento, abbiamo invitato tutti, provocatoriamente, da Monti a tutti. Hanno tutti mandato le giustificazioni per non essere presenti. Però abbiamo scritto, la giustificazione l'hanno mandata. O hanno fatto telefonare. Noi dobbiamo fermarci un attimo, ci sono le informazioni sulla borsa, ma proseguiamo tra pochissimo, quindi la linea va a Milano e poi dopo torniamo. Made Expo 2013, la fiera per progettare, costruire, riqualificare, punta su biennalità, specializzazione, internazionalità per il rilancio del settore delle costruzioni. Soluzioni e prodotti innovativi attendono i professionisti nei 6 saloni: costruzioni e cantiere, involucro e serramenti, interni e finiture, software e hardware, energia e impianti, città e paesaggio. A Made Expo, in fiera a Milano, dal 2 al 5 ottobre 2013. Di già 12:30 a tavola, poi non lamentarti se finisce tutto, e sono neanche le 12. Non ci metterò un'ora ad arrivare in cucina. Sì, ma prima dobbiamo sceglierla. Affrettatevi, con IKEA basta poco per scegliere una cucina di qualità. Fino al 31 maggio 2013, per i soci IKEA Family, spendendo almeno 2.000 euro su una cucina, c'è un buono acquisto pari al 15% dell'importo speso. Operazione a premi. Regolamento completo su ikea.it/family. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Il nucleo più intenso della perturbazione numero 9 di marzo si sta allontanando dall'Italia, lasciando alle sue spalle però ancora un po' di maltempo. In particolare domani avremo nubi sparse su tutto il paese con piogge sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria, più sporadiche sulle isole. Qualche pioggia anche al nord-est con neve sulle Alpi centro-orientali fino a bassa quota. In serata le precipitazioni si estenderanno a gran parte del centro-sud. Le temperature massime sono in aumento su Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e isole, in calo altrove. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it. Con questo è tutto. State ascoltando un programma offerto da Banca Carige Italia, Banca del Monte di Lucca, Cassa di Risparmio di Carrara. Gli speciali di Radio 24. Buonasera da Laura Bettini, riprendiamo la linea da Orbetello, siamo nel comune di Orbetello, ospiti del comune di Orbetello per questo speciale approfondimento sulla manifestazione che c'è stata oggi di protesta, 4 mesi dalla grossa alluvione che ha colpito questa zona, 4 mesi difficili per le popolazioni, per gli imprenditori, per i commercianti con i quali parleremo tra pochissimo, nei quali non un euro è arrivato per aiutare chi è stato colpito da questa catastrofe. Ci siamo lasciati poco fa parlando con Daniele Lombardelli, presidente Copaim di Impresa, di come le imprese stiano tuttora vivendo momenti molto difficili. Andiamo a un'impresa del commercio, con noi c'è Marino Caldini che è proprietario del Simpli qui, e lei ha ripreso la sua attività dopo poco ma con grande sforzo. No, Caldini? Sì, noi abbiamo preso l'attività dopo 40 giorni, dall'evento. Stiamo parlando di un supermercato, quindi stiamo parlando di beni. Mi sono sbagliato, dopo 20 giorni dall'evento. Beni essenziali comunque. Sì, perché siamo partiti veramente alla grande grazie all'aiuto di molti ragazzi che sono venuti a aiutarci, i cosiddetti angeli del fango, che ci hanno dato una grossa mano, e la nostra apertura dopo pochi giorni è stata descritta un po' da tutti il miracolo, perché siamo stati la prima azienda a ripartire, a togliere il fango da un supermercato di 1300 metri. Non è stata una cosa semplice, abbiamo buttato via un qualche cosa come 10-12 scarrabili di prodotti. Sono gli scarrabili, perdoni, sono quei cassoni grossi dei rami che portano via quintali e quintali di rifiuti, e per cui abbiamo fatto veramente un grosso lavoro e un grosso miracolo, perché ci siamo tuffati veramente tutti quanti con la testa sotto il fango per spalare e per ripulire e per rifare tutto di nuovo, perché noi abbiamo buttato via tutto e rifatto tutta l'attrezzatura, tutte nuove. Noi abbiamo fatto questo miracolo, siamo ripartiti, però adesso questo miracolo aspettiamo che lo facciano anche le nostre istituzioni, perché io siamo ripartiti mettendoci sulle spalle grossi debiti, perché siamo ritornati in banca, abbiamo acceso dei mutui molto, molto sostanziosi, e se adesso, prima di tutto bisogna dire che dopo aver fatto questi sforzi, io ritorno a dire quello che hanno detto anche gli altri colleghi, dopo aver fatto tutti questi sforzi abbiamo la certezza matematica che non ritorni un'altra catastrofe di questo genere e ci ritroviamo di nuovo nel fango come ci siamo trovati il 12 di novembre? Chiaramente questa certezza non ve la può dare nessuno. Questa certezza ce la può dare soltanto al momento in cui vedremo che i nostri corsi d'acqua, le nostre il fiume Albegna e tutto il resto venga messo in sicurezza. Hanno rimesso a posto, ci sono stati degli argini che hanno creato questo disastro, l'argine creato dalla ferrovia, l'argine che è stato rimesso su come era. L'Aurelia ha creato un altro argine che ha fatto dei danni grossi all'Albinia, è stato ripristinato come era. Se non vengono fatti dei lavori che permettono il libero deflusso delle acque, sicuramente un'altra alluvione come questa, ed è facile che ritorni, perché vediamo che il clima sta cambiando in maniera molto rapidamente, perché io non sono nato ieri, ho 74 anni, ma una cosa questa maniera non l'avevo mai vista. E adesso, come dicono tutti i grandi esperti di meteorologia, questi eventi si accavalleranno dai grandi periodi di siccità a grandi piogge. Tra l'altro, l'anno scorso è stata grande siccità proprio qua. L'anno scorso, esatto, intendo dire l'estate scorsa, quindi siamo passati da un estremo all'altro. Esatto. Per cui c'è da vedere che io non ho mai sentito parlare di bombe d'acqua. Io ho passato la guerra, ho visto le bombe venire giù dall'aereo, ma le bombe d'acqua non avevo mai sentito parlare. Adesso si parla di bombe d'acqua, vuol dire che il clima è veramente cambiato. Io magari poi chiederei su questo anche un vostro parere come agricoltori, nel senso che ce l'avete, la vedete se c'è o no questo cambiamento climatico, di cui, ma poi me lo dite dopo. Però ecco, lei diceva giustamente, bombe d'acqua, cose, eventi estremi, nessuno ci dà la garanzia che l'anno prossimo... Nessuno ci dà la garanzia che lo sforzo che abbiamo fatto per riaprire, io ho un'azienda che conta 14 dipendenti durante tutto l'anno e 24-25 durante l'estate, per cui do lavoro anche a un po' di persone, e se noi non partiamo con la garanzia che il territorio venga messo in sicurezza quanto prima, noi andiamo avanti veramente col mal di stomaco. Non è possibile. Lei diceva prima dei mutui, ho dovuto ovviamente tornare in banca. Che accoglienza vi hanno fatto le banche in questa situazione? Ma io devo dire che come accoglienza le banche ce l'hanno fatta. A me, insomma, io parlo della mia posizione, mi è stata fatta una discreta accoglienza. Però questo non vuol dire che le banche poi i soldi non le rivogliono. Le banche poi i soldi le rivogliono. E al momento in cui dalla parte di Confindustria qua. E al momento in cui le banche richiederanno i soldi, se non arrivano aiuti esterni, diventano guai veramente. Per cui le banche possono anche concedere, anticipare la morte di alcune aziende, ma al momento in cui ci sarà da restituirle, vedremo che ci sarà una moria di aziende nella nostra zona che farà veramente paura. E questo è il grosso pericolo, sia nel commercio, sia nell'artigianato, perché l'artigianato, ci sono molti artigiani che non riescono ad aprire bottega, ci sono molte attrezzature turistiche che non riescono ad aprire in tempo per la stagione. Ci sono, se avete girato la zona, vedete le roulotte disseminate in mezzo a campi, certo. E quelle persone sarà molto difficile che riverranno in ferie da queste parti. Io mi auguro che di qui a breve sia rimesso tutto a posto e che i turisti possano venire nella nostra zona veramente trovando delle belle cose come sempre l'hanno trovate. Belle sono belle senz'altro. Prima di dare la parola a lei che è assessore al turismo, Stoppa, vorrei chiedevo un intervento appunto sul tema delle banche. E a parte il fatto che Caldini ce l'ha espresso in maniera simpatica, però insomma è vero, le banche poi rivogliono, no? Quindi da questo punto di vista, che interventi si può fare, che situazione c'è? Antonio Capone, sì. Confindustria. Sì, ecco, sicuramente la parte della liquidità, lo dicevano anche gli altri imprenditori prima, è sicuramente uno degli fattori per le imprese fondamentale. E appena dopo l'evento chiaramente noi ci siamo attivati insieme anche alle altre associazioni per sensibilizzare gli istituti bancari scusate, e verificare con loro quali erano le possibilità di concessione di credito, e dobbiamo dire che le banche oggi per quanto siano sensibili però si comportano secondo le loro regole, e purtroppo non tutti i casi come quello del Caldini si sono verificati, perché aziende magari normali che non avevano facilità di accesso al credito, nonostante si fossero affacciate a dei primi prestiti per poter provare a ripartire, comunque non avevano le caratteristiche per essere finanziati. Ma oltre questo c'è stato il problema della sicurezza, appunto, perché le imprese in questo momento si pongono un interrogativo. È chiaro che poter ricostruire per ripartire è un onere che le imprese non sono in grado da sole di sostenere, quando anche chiedono un accesso alle banche, magari anche attraverso misure di garanzie che la Regione Toscana ha cercato di mettere in campo. Ma il problema è se questo credito che si cerca di anticipare per ripartire subito per la stagione poi verrà sostenuto dagli interventi statali, come è successo negli altri eventi così disastrosi, perché un'impresa oggi non può da zero accollarsi l'onere di una ricostruzione dopo un evento catastrofico da sola. Questo è impossibile. Tutta la manifestazione anche di oggi che abbiamo fatto è per questo, cercare di sensibilizzare, oltre tutte le varie problematiche di messa in sicurezza del territorio e quant'altro, che l'economia l'economia delle imprese che comunque vanno avanti, perché poi diremo di come ci stiamo organizzando, per come tutto il territorio si sta organizzando per la prossima stagione turistica e come questo lavoro ci vede già pronti, già ora, per le vacanze di Pasqua. Però questa è la capacità del nostro territorio, dei singoli e dei nostri imprenditori. Al fianco di questo è chiaro che non si può prescindere, se non si vuole fare solamente questa stagione e poi collassare, dal fatto che al fianco del credito bancario ci siano degli interventi a sostegno degli investimenti che le imprese hanno dovuto o devono sostenere. Certo. Allora, il vice sindaco Marcello Stoppa, appunto anche assessore al turismo. Il turismo qui è una fetta importante, come del resto l'agricoltura, così. Ma insomma, adesso ci avviciniamo a una stagione turistica. Da quel punto di vista lì mi sembra di capire che siamo abbastanza tranquilli, cioè la ricettività c'è, quella parte lì è messa a posto? Intanto buonasera. Sì, dagli interventi che mi hanno preceduto prenderò degli spunti per riallacciarmi. Si diceva appunto turismo, settore primario e trainante della nostra economia, turismo e agricoltura. Devo dire che il turismo ha subito sicuramente una serie di danni in questa alluvione, non paragonabili però a quelli dell'agricoltura, perché sono state colpite tutta una serie di elementi puntiformi che sono alcuni alberghi, alcuni ristoranti, alcune strutture ricettive. Però in proporzione devo dire che credo circa il 90% delle nostre strutture sono rimaste indenni da questo problema e le altre 10 devo dire si sono rimboccate già le maniche e sono pronte per operare, per cui il primo messaggio che mi sento di lanciare è che i turisti che vogliono venirci a trovare troveranno sicuramente la solita accoglienza, se non anche migliore. La seconda cosa che voglio dire è che il Comune da subito si è preoccupato di non dimenticare tutto quello che serve appunto per garantire questo apporto turistico e quindi nonostante impegnato con grande dispendio di energie dietro ai problemi dell'alluvione ha cercato di non trascurare tutto quello che era di norma il volano che in qualche modo poteva portare il turismo, anzi dei due ha cercato anche di implementarlo. È di pochi giorni fa la firma di un protocollo d'intesa molto importante che vede insieme comuni della Bassa Toscana e dell'Alto Lazio, il progetto si chiama Le Terre della Maremma, che vede appunto assieme una fetta della Maremma Toscana insieme a quella laziale, e questo progetto siglato da questi 16 sindaci con la presenza dei presidenti delle due province di Viterbo e di Grosseto, dai due presidenti della Camera di Commercio di Viterbo e di Grosseto e dalle rappresentanze regionali sta a significare appunto un sodalizio che insieme porterà avanti questa progettualità e quindi un rilancio di quelle che sono le progettualità turistiche. 18 e 19 di maggio avremo qui un unico spettacolo in Italia, una ricorrenza importantissima perché ricorrono 90 anni della creazione dell'aeronautica militare italiana e quindi a parte le frecce tricolori che sono ovviamente una manifestazione di grande richiamo, ci sarà appunto questo fine settimana che servirà anche a risensibilizzare rispetto a quelle che sono le problematiche dell'alluvione, perché noi in questo momento stiamo cercando che ogni tipo di manifestazione, anche non specificatamente riferita all'alluvione, abbia comunque una finestra, un riflettore che si accende come la manifestazione di oggi. Quello che devo dire è che stanno partendo anche una serie di iniziative proprio focalizzate sul territorio di Albinia per questa primavera estate, che vedono, come hanno visto oggi, una sinergia importante tra istituzioni, cittadini, comitati, associazioni, confederazioni. Anche in questo progetto, per questa estate albinese, vede già un tavolo di soggetti anche abbastanza eterogenei fra loro, la Proloco, le associazioni, i comitati, il comune di Orbetello, e tutti insieme stiamo cercando di programmare quelli che saranno gli eventi della stagione. A tal insomma, proposito possiamo rassicurare insomma gli ascoltatori in questo senso, ci sono le attività, non... c'è il posto, c'è ancora, ma certo, ecco. io quello che voglio dire è che noi dobbiamo vedere in fondo al tunnel per forza una luce, e tutti insieme ci stiamo sforzando di illuminarla, per cui insomma io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, ecco. Stiamo lavorando per allora questo. Noi diamo la linea alla viabilità e poi continuiamo a parlare di soggetti eterogenei come siamo noi questa sera, insomma, di quindi che persone che lavorano insieme per un obiettivo. Omogeneizzarsi, questo è importante. A tra poco. Il Consorzio Tutela Vini Oltre Po' Pavesi vi presenta Strade in diretta. Buonasera, le vetture 45 minuti, ancora maltempo su gran parte della penisola, massima prudenza alla guida, soprattutto al nord-est per possibile pioggia gelata, gelicidio anche in pianura, date le basse temperature tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il raccordo autostradale Sistiana-Trieste resta chiuso per il ghiaccio tra Sistiana e Fernetti in entrambe le direzioni, e inoltre c'è lo stop ai camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate in tutta la provincia di Trieste. In tema di lavori vi segnaliamo che fino alle 6 di domattina sarà chiusa la superstrada Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Monte Lupo Fiorentino verso Livorno. Dalle 22 alle 6 chiuderà per lavori anche la 3 Napoli-Salerno tra Ponticelli e Torre del Greco in direzione di Salerno. È tutto, il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. State ascoltando un programma offerto da Banca Carige Italia, Banca del Monte di Lucca, Cassa di Risparmio di Carrara. Gli speciali di Radio 24. Una buona sera per questo ultimo quarto d'ora insieme dal comune di Orbetello. Nunzia Squitieri fa parte dell'associazione Vita, come del resto Giuseppe Rustici, che abbiamo sentito parlare poco fa. Lei ha curato più un aspetto sociale all'interno di questo gruppo. In che termini, su che obiettivi? L'associazione Vita, che come diceva il presidente Giuseppe Rustici si è formata il 2 di gennaio, si è data per l'organizzazione delle varie iniziative da mettere in campo, si è data praticamente un'organizzazione suddivisa in 6 commissioni, proprio perché ciascuna commissione potesse essere più efficace anche nel rapporto con le varie istituzioni con cui si andava a interfacciare. Per quanto riguarda la commissione di cui io sono la referente, quindi sociale e cittadinanza, ci siamo preoccupati un po' di capire cosa si poteva fare per le 800 famiglie che in qualche modo erano state colpite, pensando soprattutto tra queste alle persone più deboli delle famiglie, gli anziani, i bambini, eccetera. E quindi abbiamo ritenuto opportuno, insieme anche ad altre associazioni come l'associazione Agape, aprire uno sportello di ascolto coadiuvato da due psicologhe che stanno supportando chi vuole rivolgersi alle loro competenze professionali per tentare di gestire un po' il disagio, perché il terrore, la paura che le persone hanno avuto quella notte terribile non è che si può cancellare in maniera così semplice. E soprattutto la paura che ancora accada. Volevo ricordare che noi abbiamo avuto 6 vittime in questa alluvione, 6 persone che sono morte, e che il 25 di gennaio l'Albegna ha raggiunto di nuovo i 7 metri, e solo perché è uscito, cioè dall'altra parte rispetto alla situazione che c'era stata il 12 di novembre, in cui alcuni pezzi di argine erano caduti, e mi riferisco alla zona che riguarda la Polverosa fino alla barca. Lì praticamente il fiume è riuscito, solo perché gli argini non c'erano, è riuscito sulla riva destra, mettendoci con le spalle alla sorgente, e quindi questo ha significato per noi che abitiamo sulla parte sinistra la salvezza, ma siamo scappati di casa ancora una volta, e non solo quella volta. Quindi accanto sicuramente a questo appello che facciamo di rivenirci, di promuovere in qualsiasi modo comunque la nostra zona, perché continua a rimanere tra le più belle che la Toscana ha lungo la costa, non dobbiamo assolutamente dimenticare che la messa in sicurezza è la priorità assoluta. Sindaco, quindi gira e rigira siamo tornati al punto di partenza. Le 800 famiglie aspettano, anche insieme alle aziende ovviamente, aspettano risposte in tal senso certo. dalle istituzioni. Grazie. A lei, Nunzia Squitieri. Sindaco, appunto, dicevamo, siamo tornati al punto di partenza. Sì. Siamo partiti, abbiamo fatto un lungo giro attraverso le imprese, il commercio, l'agricoltura. Siamo tornati alla messa in sicurezza, il tema delle infrastrutture, quindi temi che sono portanti per voi come per altre aree della provincia, come ci ricordava prima il Presidente Marras. Sì, sicuramente il punto principale è proprio quello della messa in sicurezza del territorio, che non può prescindere da quelle che sono le infrastrutture, perché noi abbiamo visto proprio nei giorni dell'alluvione il ruolo importante per i danni che si sono creati, che hanno rappresentato sia la ferrovia che l'Aurelia, che hanno ostruito il deflusso dell'acqua e hanno creato un vero e proprio ostacolo. Quindi chiaramente non è accettabile che si possa pensare di ripristinare quelle strutture senza modificarle, perché bisogna rendersi conto che da 12 novembre sono cambiate tante cose, e quindi niente può essere come prima e niente deve essere come prima. Quindi è fondamentale che le Ferrovie dello Stato e l'ANAS si prendano le responsabilità di questo problema, perché oltre a mettere in sicurezza rifacendo gli argini che si possono rompere, che è una cosa rara ma che è successo e che può risuccedere, uno dei problemi più importanti di questo territorio è la mancata drenaggio delle acque. Noi abbiamo sempre dei problemi di acqua alta, perché il nostro territorio è un territorio che è stato nel secolo scorso ottenuto, i nostri campi sono stati ottenuti dal palude, quindi ci sono delle pompe meccaniche che lavorano 24 ore per far sì che non ci sia l'acqua nei nostri campi. È come vivere sotto con un polmone d'acciaio. Quindi questo noi dobbiamo tenerlo conto, e dobbiamo tenerlo conto in tutte le scelte, specialmente nelle infrastrutture. Quando si fanno le infrastrutture bisogna sapere che questo territorio è così rischioso. È un territorio che vanno rifatti i canali, vanno rifatti i percorsi di drenaggio. Non si può pensare che l'Aurelia abbia un solo passaggio dell'acqua dal territorio verso il mare, verso la laguna. Quindi bisogna che nell'ambito del progetto di messa in sicurezza bisogna pensare a queste cose. Ma sia ANAS hanno in qualche modo risposto a questa richiesta? No, richiesta finora è stata fatta solo una richiesta da parte della Regione Toscana, ma è un punto, nel momento in cui stiamo lavorando fra enti e anche nel confronto con i cittadini su quello che è il progetto di rivalutazione e di messa in sicurezza idrologica del territorio, dobbiamo pensare anche a questa cosa, e stiamo lavorando anche su questo progetto. Questo non solo nelle strutture vecchie, ma anche nelle strutture che dovranno essere fatte. Cioè non si può pensare di riproporre dei progetti che abbiano delle valutazioni idrologiche antecedenti al 12 novembre. Noi, qualunque cosa deve essere fatta su questo territorio, qualunque struttura, deve essere corredata da uno studio idrogeologico che sia coerente con il danno che è successo. Un'altra cosa volevo dire sul discorso delle famiglie, noi abbiamo come amministrazione abbiamo un grosso lavoro che è legato al fatto di capire dove sono le esigenze, dove sono appunto le sacche di povertà. Per questo abbiamo cominciato le possibili future sacche stiamo lavorando subito con quelle che sono le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Abbiamo aperto appunto un dialogo tra l'amministrazione e le associazioni che sono presenti diramate sul territorio, per evitare che ci sfugga qualcosa, che ci sfuggono o che si vengono a creare le sacche di povertà. E bisogna lavorare per fare in modo che nessuno rimanga indietro, di tutti i cittadini, e dobbiamo fare in modo di dare le risorse ancora prima determinati tipi di situazioni. E questa è una cosa con cui stiamo lavorando, perché nessuno deve rimanere indietro dei cittadini del comune di Orbetello. Giuseppe Rustici, Presidente Comitato Vita, ricordo il tema delle autostrade e delle infrastrutture. Ho sentito che prima ha suscitato un po', però Lombardelli non si vuole esprimere su questo? Perché nel momento in cui abbiamo detto parliamo di infrastrutture si è subito levata la voce sulle autostrade. Qua da molti anni in discussione la costruzione di questa autostrada. Che cosa le aveva suscitato il discorso infrastrutture su questo tema? L'assenza dello Stato. Ancora una perché volta. Credo che questo tratto di autostrada, se mai verrà realizzato e come verrà realizzato, sarà l'unica autostrada d'Italia fatta senza il minimo intervento finanziario dello Stato. Questo è un altro elemento e verrà fatto non a tutela, con un progetto a tutela del territorio, ma solo nell'ottica del risparmio, contro gli interessi della popolazione della Maremma. Questa è la verità. Giuseppe Rustici. Allora, volevo concludere. Molto volentieri le affido la conclusione di questa volevo serata. Volevo concludere innanzitutto ringraziando. Ballo alle 8 del mattino lei, l'ho vista all'alba. E ringraziando a voi che ci avete seguito da questa mattina e ci avete dato l'opportunità di andare più volte in diretta e quindi far sentire la nostra voce. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, grazie a tutti i ragazzi che hanno permesso questa riuscita della manifestazione, grazie a tutte le istituzioni presenti, grazie a tutti i sindaci che sono arrivati numerosi dalla Toscana, grazie ai politici che hanno partecipato. Ci ricorderemo di tutto, tutto è stato filmato e quindi anche nella memoria. Tutto è stato filmato e quindi sappiamo quello che ci hanno promesso. Ha firmato la liberatoria. Sappiamo quello che ci hanno promesso. Grazie anche a Radio 24. No. Radio 24 no. L'ho detto all'inizio. Grazie no, a Radio 24. Siccome abbiamo ancora due minuti, lei ha fatto. E comunque sia, vorrei dire una cosa. Signori turisti, venite nella nostra Maremma. La nostra Maremma è sempre accogliente come sempre, come negli anni scorsi. Venite, troverete una buona Pasqua, una Pasqua organizzata. È un'estate ancora più organizzata degli anni precedenti. Aiutateci a far rinascere questo territorio. Grazie ai turisti. Io spero tanti vorranno cogliere questa occasione. Tra l'altro io d'origine sono di Grosseto, quindi insomma mi fa piacere insomma essere qua oggi. Però siccome avevo lanciato lì questa piccola discussione sul cambiamento climatico, Andrea Visconti, le voglio fare in conclusione questa domanda, perché io ho anche una piccola trasmissione, ne faccio pubblicità sulla radio stessa, L'altro pianeta, che si occupa di sostenibilità, di temi ambientali. Allora, la questione del cambiamento climatico, l'agricoltore la vede, se ne accorge, è una bufala oppure no? No, in realtà qualcosa è successo, perché questo clima estremizza, abbiamo due calamità diciamo in due anni, una di siccità e una per l'alluvione. Cioè l'alluvione c'è stata anche nel 66 in agricoltura, certo, però ricordiamo. Abbiamo tutti seminato, abbiamo tutti fatto tutte le nostre cose normalmente. Quest'anno è venuta l'alluvione, l'evento, e poi per altri 4 mesi non ha più smesso di piovere. Siamo trovati, noi abbiamo avuto il coraggio, come dicevo prima, di liquidare, perché noi eravamo tranquilli che potevamo seminare delle culture alternative, qualcos'altro. Poi finisce, invece no, sta cambiando, perché se contiamo i millimetri d'acqua da novembre. Presidente della provincia. No, forse io mi sono stufato di vuotare il pluviometro che ho a casa, perché è una cosa. Allora qualcosa è successo, perché poi no, in tanti anni, negli ultimi 15 anni diciamo che estremizza molto questo clima, non ci sono. E quindi prepariamoci, la fase però, fatta, non ci sono più le mezze stagioni, ci sono. Ci sono purtroppo solo brutte stagioni. Ci sono ultimamente. Brutte stagioni. Io ringrazio il sindaco Monica Paffetti che ci ha ospitato qui nella sua sala giunta, ringrazio Pietro Lacorte, Davide Ciocia e anche la mia amica Vanessa Quinto che è stata a fianco a me durante tutta questa giornata. Restituisco la linea a Milano. Banca Carige Italia, Banca del Monte di Lucca, Cassa di Risparmio di Carrara. Vi hanno presentato gli speciali di Radio 24. Nuova email. Vai a campo oggetto. Quello che dici lascerà il segno. Vai a campo testo. Dragon, virgola. Il software di scrittura vocale 3 volte più veloce della tastiera. 2 punti. Le tue labbra possono dire molte cose, virgola. Dragon le scrive tutte. Punto esclamativo. Invia email. Dragon, il software di scrittura vocale. Tu parli, lui scrive. Sa essere una compagna, un'amica, una confidente e sa stare sempre con te. Radio 24 è dove sei tu. Scarica le applicazioni per iPhone, Nokia, BlackBerry, diventa fan su Facebook, seguila su Twitter e avrai in ogni istante le anticipazioni e i contenuti della tua compagna preferita. Radio 24. la passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da Axel.